È vero che al mondo siamo 6 miliardi di persone e stiamo aumentando. Ciò nonostante, quello che fai fa la differenza. Fa la differenza innanzitutto in termini materiali, fa la differenza per le altre persone e crea un precedente. Insomma, io credo che da questo bisogna capire che non dobbiamo mai chiamarci fuori. Siamo sempre noi a decidere chi siamo. Restano i dubbi, soltanto una bomba e un fondo d'alcol. Ci galleggia la mia storia, il percorso è ciò che traccio. Io ritorno sul mio monte, guardo la città dall'alto, ricordandomi chi sono, perché insisto e lo rifaccio. La speranza è sempre l'ultima a morire, ma non fatemi sentire solo voce alla rinfusa. Chi l'ha chiusa non ha il tempo di prendersi una pausa riflessiva, a volte col silenzio che t'asciughi la saliva. E non mi sento in vena di capirvi sempre, gente. Io ho già troppe paranoie, le svendo al mio banchetto, al migliore offerente. Capisci, mi temente, son povero, son scelte, o no? Da piccolo son stato a troppe messe. Vorrei il papa mi donasse l'otto per mille delle sue ricchezze, le dividesse, collane annesse. Siamo tutti polleggiati la mattina, siamo in lista di aspettativa, ma aspettiamo solamente un'altra siga, un'altra riga, un'altra birra, un'altra sfiga, un altro sconto comitiva. Vada prima, non mi offendo, mica. Sono il primo di una lista che rinuncia e brinda prima. Lasci stare, non vogliamo la pensione. A noi basta un po' di terra, dell'acqua, questo suono è un capannone. Poi basta, perché un grazie va soltanto a chi mi ricondiziona. Da sopra e sotto il palo, ad ogni traccia in repeat sul tuo stereo. A te che illumini la strada dove prima c'era nero. Al tuo pensiero che mi culla tramontana all'albeggiare. Ad ogni volta che sclero, ad ogni merda che bevo. Ed ogni sguardo che vedo è soltanto per ricordare che chi unisce cresce, chi separa che scompare.